15. Era bello giungere a Oswego dal lago, come venire dal mare. Non sembrava nemmeno lo stesso luogo quando era apparso all'orizzonte. Il convoglio acquatico era maestoso, imponente. Una grande nave, in nulla dissimile a quelle che solcavano l'oceano, faceva da punta di lancia a una flotta di imbarcazioni più piccole, diretta alla volta del Concilio delle Sei Nazioni. Esther guardava il vertice di quell'aguzza geometria. A indicare la direzione stavano John Johnson e Daniel Klaus, impettiti a prua del Barrymore, che trasportava un carico di uomini e vettovaglie. Sir John aveva preparato un rientro da Montreal in grande stile. Giungeva al concilio con centinaia di uomini, una milizia che aveva battezzato Royal Green. In più il Barrymore traboccava di viveri, cannoni, fucili, polvere da sparo, rum. Esther era arrivata in Canada con gli zii all'inizio della primavera. Doveva riconoscere che da quando nella capitale aveva ottenuto l'incarico, zio Daniel sembrava un'altra persona. Anche i suoi modi erano cambiati, più risoluti. Tirato alla moda di Londra nel vestire. Perfino l'accento tedesco era meno marcato. Ovunque si parlava di guerra, nessuno pensava ad altro. Esther osservava volti, espressioni decise. Ascoltava discorsi, parole inequivoche. Vendetta implacabile, rompere le ossa, i Johnson torneranno a comandare, l'esercito di Sua Maestà ci raggiungerà tra 10 giorni. Quando il convoglio era stato avvistato dai bastioni di Oswego, una folla si era radunata sulla riva ad attenderli, mentre altri cercavano di salire a bordo di barche e canoe per andare festanti a salutare e scortare la carovana fino all'attracco. L'entusiasmo era irrefrenabile. Esther aveva provato una forte emozione, molti sentimenti le avevano affollato il cuore. Durante lo sbarco e la frenesia delle operazioni di scarico, uomini e donne erano accorsi a dare una mano. Esther aveva approfittato del trambusto per dileguarsi nella confusione generale. C'era qualcosa che doveva fare da tanto tempo. Il piccolo cimitero dietro la cappella era deserto. Il vento portava via i rumori dell'accampamento e della massa d'uomini che approntava la guerra. Le folate si insinuavano tra le croci, portando fin lì l'odore del lago. La figura esile spiccava in mezzo alle tombe, davanti alla piccola targa di pietra, fiori di campo stretti tra le mani giunte. «Madre, sono tornata. Sono di nuovo a casa, madre mia, anche se casa è lontana. Amo questi alberi, l'acqua e i nostri fiumi. Ci sono molti indiani, i nostri indiani». C'è un concilio importante, si decide la guerra. Dicono che un grande pericolo grava su di noi, ma io non rimarrò nascosta a piangere, non più. Eccomi, sono tornata. Ho attraversato di nuovo l'oceano per essere qui da te. È passato tanto tempo e io sono diversa. Sono cresciuta. A Londra ho appreso molte cose. Potevo rimanere, zia Nancy non lo avrebbe impedito. Ho preferito tornare, a prendere il mio posto, come avresti voluto, come avrebbe voluto il nonno. Zia Nancy e zio Daniel dicevano che ci sarebbe stato anche mio padre, ma non l'ho visto. Non ci sarà. Da tempo ho smesso di aspettarlo. Ho imparato a vivere senza di lui. Altri hanno preso il mio dolore sulle spalle. Uno di loro spero di incontrarlo qui. Un uomo coraggioso e buono. Anche per questo sono tornata. Madre, questi fiori freschi sono l'amore sempre vivo. Sono il sorriso e la speranza anche nei momenti difficili. Sono la stretta che scaccia la paura e il dolore. Mi chiamo Esther Johnson, figlia di Mary, nipote di William. Questa è la terra dove sono nata. Questa è la mia gente.